Però io so, guarda, l'hai visto che scopo come sta voce? Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10? Avanti, QRZ? Avanti! Consiste nel fare la cistoscopia però da addormentato, no? Perché devono tagliare, lo devono asportare. Sì, perché puoi analizzarlo, capito? Avanti Marco, e vabbè, non mi piacciare a tagli, se no è video. Avanti Marco. Sì, Natale, non pindacciare, pensa positivo poi. Però vedi queste cose, io me ne sono beccato uno al cervello, e a te ti devono aprire la chicchia, a me mi devono aprire il cranio per toglierlo. Ehi, quando ti trovo ti apro un'altra cosa io. Quindi non hanno tagliato, per adesso sono soprasseduto per tagliare tutto. E allora, in zona è tutto, ha detto chi taglia. Beh, si fa prima, no? Dice. Comunque, vabbè, ascolta, secondo te com'era? Fastidiosa, ma non si può definire dolore, più fastidio che dolore. Sì, ma io avevo anche i dolori, guarda, quello che ho sofferto oggi non lo auguro al peggior nemico. Cazzo, sono arrivato a un gancio lì. Mi ha accompagnato Cristina, mi ha accompagnato, ma solo andare in macchina, gatto, guarda, avevo dolori alla pancia, dolori lì, guarda, dolori furti poi tra l'altro. E con tutto mi avevo umiliato una di quelle pastiglie antinfiammatorie. Ma per l'ansia non hai preso nulla? Ma cosa ansia, che a me non me ne sbatte nulla, per l'ansia cosa abbigliamo? Se non ha giù roba per l'ansia. E poi non me ne frega nulla, io non temo. Io sì, infatti io quando l'ho fatta quella lì ero strafatto di benzodiazepine, almeno ero tranquillo di testa. Paghi su, a me mi hanno fatto appesi, mi hanno riempito la vescica di acqua, cazzo, me l'ha fatta appesi, me l'ho fatto in tre dottoresse erano mi. Tutte femmine, non capisco, cioè, in effetti una volta le cose da, per gli uomini le facevano gli uomini, è un po' imbarazzante, mi c'era anche da me un'infermiera, un dottore anziano e un'infermiera, va bene, Gianni riprendi. Ma Natalino è un drago, da $3 ce l'ha fatto toccare. Sempre se ne mettono le donne per farsi soffrire di più. Oia, oia, mamma mia, che cosa era salvato purtroppo. Lasciamo perdere a tirare a campare, io l'ho sempre detto, questo vivere, questo è tirare a campare e non sono il solo, poi mi. E infatti vi siete soprammodulati poco fa con Gianni, perché Gianni c'ha il dito veloce. No, ho detto, questo vivere, questo è tirare a campare, l'ho sempre detto. Sì, infatti, lui cazzo mi ha detto di contattare addirittura, questo è niente, l'aneurisma è pronta ad operare, quindi adesso devo trovare il chirurgo vascolare che mi operi, no? Perché c'ho già l'attacco che glielo dice che è pronta da operare. Bobo, andiamo bene, Gianni riprendi, io faccio una pausa che sto mettendo a posto, che stavo facendo roba qua, è tutto imbandito, vai Gianni. Insomma Natale, due operazioni devi subire, dai. E allora? Allora, lui, io ti ho fatto una battuta poco fa, ho detto reazione non ne hai avuto. No, niente. Ciao, ti bacchettano. Ah, inteso quella reazione lì. E poi ti bacchettano, si dicono, ma lei dice non deve arrestare, lei è per un esame medico. Qua non sapevo neanche davvero quando mi hanno entrato tipo un affare di RG58, forse più grosso pure. Quella guida in acciaio, quanto sarà lunga? E che ne so, mica mi mettevo a misurarla, sarà un 60 centimetri. Ma perché Marco, anche tu l'hai fatto quell'esame? Sì, io però l'avevo fatta perché quando mi hanno operato i calcoli a rene mi hanno messo uno stent urologico che andava, è una specie di filettino di plastica, no, che finisce con due riccioli e andava dalla vescica al rene, cioè un'estremità era al rene e una alla vescica, però non senti nulla quando te lo tolgo, cioè a me sono dovuti entrare lì per sfilarlo, agganciarlo con le pinze speciali e sfilarlo, non senti nulla. Però questa guida d'acciaio sarà mezzo metro, come ha detto Natalino, 50-60 centimetri, e lì devi stringere i denti e non guardare e andare avanti. Io vabbè mi sono aiutato perché avevo FIFA, quindi era leggermente strafatto di benzodiazepine e quindi era un po' più sopito, ecco, se no bisognava tenermi, bisognava chiamare l'infermiera a tenermi, capito? Voi siete tutti la massa di cuocomani qua dentro, perché siete sempre all'ospedale, boh. Ciao Luca. Ciao. Ha drogato il doppio rum, perché non è sempre lì, sempre a cuocomani qua. Per forza Luca, fanno tutti uso di droga. Ho detto, all'ospedale andiamo per scassinare gli armadietti pieni di, con la roba buona. Non vedo, mi da poi la vindi malucca che coccuone. No, lì meglio, morfina, trovi, a voglia. Ma tu lo sai. Sì, anch'io lo so, sì. E tu perché vai tutto drogato all'ospedale, coccuone? No, Marco era drogato, io no, io ero sano, di mente. E c'avevo anche il mangaglio. Poi io queste cose alle parti basse non le posso vedere. Da me sono entrati da tutte le parti, in basso, davanti e da dietro. Insomma, si è a posto. Sì, servizio completo. Ci manca la gastroscopia, tocchiamo ferro. E sì, bello che è completo, se ti fanno quella. Ma dottor Meloni, che ci sia dottor Cugia. Ma quello che va a strazzatura? Hai visto quando si incazza va a strazzatura? Guarda, io la temo di più di tutte le altre cose. Passi la, quella davanti, passi quella dietro, la sonda lì, vabbè, non entriamo. È praticamente l'esame della prostata transrettale, è una ecografia, no? Ti infilano questa cedda di metallo che è il sondino per vedere con gli ultrasuoni la prostata da dentro, però capito, perché più vicino. Però la gastroscopia è brutta perché ti dà senso di, come di soffocamento, è brutto quello, è più brutto degli altri due. Meglio dietro, meglio davanti, a me in bocca no. Infatti, a me mi hanno rotto il culetto a casa all'ospedale, quando ero all'ospedale, hanno detto, ne è giunta la ghiccia, è sempre femmina a me, cazzo, con questa pompa. Ispezione anale, cazzo, e vedi, amico, che tu ti puoi sudare a bovaraccio, cazzo, burro guru da ne facciato, è da pompato. E allora, via, Gesù Cristo mio, tutto questo che sto convivendo in questo buon tempo, cazzo diavolo. Cosa non si fa per la salute? Riprendi, Luca. E anche io dovrei, adesso giovedì sera, io sono andata lì giovedì sera e venerdì mattina si può fare il foglio dell'esenzione, giusto? Me lo confermi? Non lo so, no. Non lo so quello. Se si può fare. Ma cosa ti serve l'esenzione? Ti sono preso il bagaglio, tu cazzo. Fai gli analisi se ti puoi ribagare, fai chi se ti puoi ribagare, l'esenzione adesso vale poco. No, vabbè, a me serve, cosa vale poco? Se non viene più da fare il duccio, no, le cose come dici già, fidati. Tipo io se faccio la visita per il naso, quando sono stato operato un anno a questa parte, più di un anno, non pago la vista, altrimenti se non ho lo 02 la pago piena. Vabbè, comunque chi ha l'esenzione non dovrebbe pagare nulla. Sì, già lo so, però molte volte questi non è di quando a pagamento, mentre ha giù fatto io, che ha giù messo 150 euro. La cosa, l'ecografia l'ho dovuta fare a pagamento e in più li ho persi quei soldi, non me li posso caricare. La cosa vi pulia la gaccia, devi essere rintracciabili. Capito, io gliel'ho dato in contanti e me la sono presa nel di dietro un'altra volta. Ma Natalì, non c'è una sorta di ricevuta comunque per detrarli? No, se non gli dai la carta non si possono detrarre, perché i soldi che tu gli dai devono essere tracciabili. Mi ti lo dici pure Gianni. Sì, una volta quando ho fatto la denuncia di redditi a me me ne hanno scartato 3 o 4 perché erano pagati in contanti. Ed erano tutti in visita a 680 euro, capito? 3 me l'hanno scartate perché ha detto che non erano pagate con la carta. Allora adesso d'ora in poi quando devo pagare tutto con la carta. Infatti, se non sono pagati con la carta non te li fanno valere, capito? E paghi su, allora, andando a pagamento, tanto un po' di roba mi toccherà pagarla. E buon curitina, mi ragazza e viene lì dopo la gassa, ecco, fatto. Dammi la restituta che da voglia per pensivo. E infatti, perché ti danno praticamente, se attaccano lo scontrino alla ricevuta e tu devi presentare quella qua dopo il 7:30. Sì, infatti, è fatto tutto con scopo, ladroni che non sono altri, da voi ti siamo noi di ladrimi. E per vedere dove spendi i soldi, capito? Io quando faccio la spesa la pago sempre in contanti, è difficile che paghi con la carta, sempre in contanti, perché ogni volta che usi la carta te ne prendono soldi, capito? Per la funzione della carta ti prendono un tanto. Sì, già lo so, grazie, se no manco già fidati ne più. Fanno pagare l'operazione praticamente. Tutte le cose che fai in banca ti fanno pagare l'operazione, anche se fai, per dire, l'estratto conto, ti fanno pagare l'operazione. Infatti, va bene Marco che va tutto drogato di benzodiazepine e se ne sbatte. Va col sorriso sulle labbra. Sì, lì era necessario, è perché io mi prende male, mi ha messo a croce mediche, poi dalle parti basse, e quindi ero tranquillo, tranquillo. Va bene, no, sì, no, devo smantellare quella roba che c'è qua e quindi faccio bianco, rilancio Luca e poi se posso rientro dopo. Se non ritenetevi super salutati. Riprendi Luca. Sì, Luca, ciao, trovizio. Sulla terra mediazione sarò via. Ma per Marco, buon proseguo, non ti pare prossime, grazie per il QSO. Avete parlato in due, anche adesso. Tanto mi ha parlato sopra perché io stavo parlando. Vabbè, ti saluto Marco, dai. Siamo qua. E rientra perché sennò paghi la multa. Ma anch'io ve l'ho data la benedizione, no? E non vi basta. Vai, vai, pirata. Abusivo, che se non entri paghi la multa. Non stai pagando più la tassa, l'abbiamo saputo, Marco. Ah, Nathalie, a proposito, abusivico, non so se ne avevamo già parlato, a breve, in un breve futuro, in un futuro prossimo, lo stiamo già studiando, vogliamo fare le patenti facilitate per i radiomotori, ridotte, si potrà usare il VHF e un UHF, ma non l'HF. Sono patenti molto facilitate, si dà un esamino, non so se in sede aria, devono decidere. Praticamente le patenti degli asini, chi magari non aveva studiato o non riusciva proprio a prendersela, quella più difficile, ci sarà questa, e puoi usare la banda VHF-UHF. Un po' come la ridotta americana, come fanno anche Svizzera, ne avevamo parlato o no? Sì, la patente N, hanno reintrodotto la patente speciale, quella che c'era prima. Ehi, N sta per, mi pare, non so come si pronuncia in inglese, novice, novice, novizio vuol dire, novizio, praticamente il pivello, ecco, però a chi può interessare, per dire, se uno si accontenta di stare col portatilino appresso, col bibanda in macchina, si può fare quello. Tu, a me manco quella mi danno, quindi non mi interessa. Manco a provare, manco a pensare, ormai ti sei demoralizzato. E vabbè, lo sai come va, no? Ehi, lo so, proprio perché lo so, no, non ci provo neanche, già mi sto 27 MHz io, sto bene qua. Cattari, vai a Roma e non vai all'esame. Ehi, potrei fare anche così, ma chi me lo fa fare? Poi mi sono messo male di salute. Non posso camminare, non posso fare niente, oggi mi, se sai come sono arrivato all'ospedale, guarda, a piedi sono arrivato, andata a Nogga Sant'Ubrito. Perché a piedi c'è andato? No, in macchina, ma c'avevo già i dolori in macchina, c'avevo, cazzo, sono arrivato a piedi. Tuglia. Me lo posso immaginare, ma dai, meglio di me non ti compro di nessuno, solo che da voi di dolore lo comprendo. E infatti, quando sono sceso giù, no, per aspettare a Cristina che mi portava all'ospedale, mi attaccano a venirmi questi dolori senza nulla, mi all'improvviso. Crepato era. Invece a me prima di pranzo mi è scesa la glicemia a 61, Natale. Mi ho preso subito due cucchiai di miele e me l'ho fatta salire. Io non so nemmeno la cantura la glicemia, ma ho mangiato mezzo panino prima di andare. Verso Londres e mezzo. Adesso quando sono tornato mi ho mangiato una mozzarella e una pesca nel vino e una zucca d'aglio. Perché non sai come comportarti, se mangi poco ti si abbassa giù, se mangi appena di più ti alzano in picco, ma non ti dico molto di più, qualcosa in più, ma ti alzano in picco subito. E infatti per non andare a stomaco vuoto mi ho mangiato mezzo panino con la mortadella. E boh, prima di andare. Quando sono tornato ho mangiato una mozzarella e quella pesca lì. Boh. Allora. Ascolti, Brudino. Di mammo? Allora, Brudino di mammo. Hai rubato la battuta. Mi sento sempre cazzo con la recce, barabbimi. Pozzinoso. Ehi, e sono qua che sto mettendo a posto, in questa camera, mi dove c'è il baracchino? Ah, per quello che stavi ascoltando. Briconcello. Tanto per cambiare sto tarando un mirino. Vi siete sopra accavallati. La recce di barappango. Ho detto Natali, tanto per cambiare stavo tarando una tacca di mira. Sì, tara, tara. Sarà rugginosa la tara. Tutte rugginose saranno le armi, non le ho più viste. Vedi così vi sarà attaccata la ruggina che. Non le ho più viste. Tra la glocca che polimerica. No, le parti metalliche. Saranno tutte arrugginite, boh. Che ne so. Pure quello c'è da fare, mamma mia. Chi ne ha voglia? Ma cosa? Se sono tenute bene non c'è umidità. Ma sanguinisce. Ehi, vabbè, cosa vuoi dire? Che io già. Già da conduto come te. Cosa me ne ha fatto? Tanto va. Ho perso interesse a tutto. Prima cazzo, ogni volta che andavo a sparare, cazzo, subito pulito. Ah, Natali, una curiosità proprio della Glock. Ma la canna è in acciaio inox oppure acciaio normale brunito o acciaio normale cromato? Quella che ho io è in acciaio brunito, ma ci sono anche quelle in acciaio cromato. Capito? Però sono a per market. Quella che ho io originale è acciaio brunito. Ah, ho capito, dai. Va bene, riprendete bianco per me. Ciao. Non è più usato la tarina, sono sempre fermo adesso. Se non posso camminare, non posso fare nulla, come faccio? Non posso guidare, non posso fare nulla. A che punto sono arrivato? Dopo te ne dimentichi, dopo che ti mettono a posto te ne dimentichi pure. E se mi mettono a posto? Ah, ti mettono a posto, visto come ero io che non riuscivo manco a camminare con le stampelle, ma ti dico. Grazie a Dio adesso cammino bene. E speriamo che succeda la stessa cosa a me. Cosa vuoi ti dica? Io mi le cane l'ho messo in parcheggio, stanno frasigando, sempre senza usare. Prima, ui, non c'era giornata che non andavo. Sì, e se no non mi ravvità di chissù. Non mi ravvità di chissà che so parcheggiati in oggi. Tutti i muriti me lo so parcheggiati. Ma io le ho ingrassate, le ho fatte per andare, e poi non ci sono mai andato. Sono tutte pulite, ingrassate, le ho messo il CRC, tutto canto, sono tutte pulite bene, poi le ho lavate bene con l'acqua e via, con l'acqua dolce. Infatti, mi sono tutti in chivi, mi sono sorridenti. Io credo che dovevo fare è cambiare la lenza, perché c'è un po' di tempo, c'è una pratica. Cosa vuoi che ti dica? Qua c'ho tutto quanto arrumato in occhio, no? Senza trattare. Ma cosa ci succede? Non puoi fare nulla. Quando non stai bene così, Natalia. Io voglio dare un divano al rito, lo divano al rito. Nel rito lo divano. Stavo bene solo con il cazzo, se mi alzavo dolori, poi io manco bucato, non ho giocato retto oggi, sono sempre usato in occhi, ma è del mio computer e boh. Sì. Purtroppo quando non stai bene così. Allora. Devo essere costretto a chiamare la gente, ma puttami, ma cosa non me la sento manco di guidare. Cazzo. Ti sto chiedendo come ti sono preparato in strada ad aspettare con la persona che veniva a prendermi, i dolori all'improvviso mi sono saliti. Cazzo. E non fa più nulla, mica mi sono preparato. Le bozze. l'emozione. Ma cosa l'emozione, mia dolore, mamma mia. L'emozione che era una donna. Ehi, sono di quella razza, dottoressa, pure quella, mamma mia. Ma la dottoressa? Ehi, la moglie di Giorgio. Quella che lavora a Pavia, era a Sassari oggi, è arrivata oggi perché c'aveva un convegno a Cagliari. E quindi mi ha portato lei. Bene, bene. Tieni in mano buona, dai. Sì, mano buona. Doveva venire Giorgio, ma Giorgio stava lavorando. Infatti già mi ha portato lui lì. È un piano più sopra lui. È parato un piano. E mi accompagna a dedo. KK, vabbè, sono gentili. Cazzo, qua, veramente squisiti. Sono di lusso veramente. Adesso bisogna contattare quella dottoressa che è chirurga vascolare per vedere se mi va a operare. Chi si copia chissà di Natalino. Oh, yeah. La mentalità diversa, continente c'è una mentalità diversa. Sì, sono bravo al virus, sono due bravi ragazzi veramente. Meno male che ogni tanto si trova qualcuno. Sì, infatti, quando giocando da fare attacchi non mi accompagna a due e due a Olbia per fare quell'attacco. Vabbè. Vengo un paio da farla, io da già un paio da ritirarla. Sì, infatti a chi è due a Travaglienti. Se non sa più a Santo Bucciami, a Giuseppe Fonadu a Franco, un vedi voce non mi rispondi più. Boh. Come se io l'ha già fatto qualche cosa, non lo so, non gli ho fatto niente, eppure non mi risponde, sempre la segreteria e lui non mi richiama. Quando mai non le vede le chiamate? Boh. Avevo butto la benzina, mi avrebbe portato gratis. Cosa vuoi che ti dica? Prima mi buttava sempre e dove i chirurghi. Ma non sei più fatto intendere. Se non ti vedi in un maro mio non rispondi. Entra in funzione la segreteria. Cosa vuoi che ti dica? No, mi ha detto che era fuori. O magari non vera in Sassari, cosa vuoi che ti dica? Fatti caso che non sappia che tanto buttarmi. Hai fatto bene a chiamare a me. C'è un problema, se io posso farlo, un po' non lo faccio. Infatti. E cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è successo che o non c'era, che era fuori, e per quello che non mi rispondeva. Se no mi avrebbe portato lui, tante volte mi ha portato ai posti a fare queste cose. Avanti, quando devo fare esami di Rusango, devo acciappare qualcuno che mi voce vabbè che la devo fare. Sono so bucato la visita di diabetologica qui, non me ne sbatte. Per il momento devo cercare di risolvere queste situazioni qua. Vabbè, ma l'hai già fatto l'esame del sangue in Altaina a poco? Sì, perché avevo la visita diabetologica, capito? Io li faccio solo quando devo andare a fare la visita, devo fare l'esame del sangue, l'esame delle urine, se non mi fa fare altre visite. Saburo, oculista, guida, guidato, sono voluto andare a pagamento che anche io al policlinico l'ho fatto a pagamento quella dell'oculista. E se uno non ha quella base? Ma se uno non ha, si ammazza, cosa vuoi ti dica? Così è avanti, se non rivende la seguente in America, che se non fai l'assicurazione non ti puoi curare. Vedrai che arriveremo a quel punto lì. Perché ti dicono sempre che non c'è posto. Sì, come hanno fatto a me dal cardiologo una volta, è chiamato, era di quelli come, c'è un attimo, E gli ho detto, ma lei ha la convenzione, vero? Sì, ma non c'ho posti con la convenzione, e facendolo in privato, può venire anche stasera. Sono andato lì, Natalino, vero, un'anima viva, me lo poteva fare benissimo in convenzione e mi ha fatto pagare 85 euro. Ah no, lui ha... non ce n'è più gente onesta, no, già, non ve n'è più. Manco con l'antennino li truffi. Di Napoli e lui si parla solo per contanti. Ma ragazzi. Perché la SN ci mette tanto a pagarli, capito? Non li paga in orario e quindi loro evitano, si fanno dare solo i contanti, invece sono tranquilli. E infatti, chi su Marungio non è convenzionato, ma se andavo in Chivio, andavo da dottor Giraudo. Praticamente adesso ti dicono che all'anno ci puoi andare con la convenzione. Per l'anziano, con lui mi ha fatto una medicina, ma detto, ma lei è giovane, non la prenda più questa medicina. E poi queste medicine qua, a lungo andare, la rendono impotente. Chi gliel'ha data questa medicina? Gli ho detto, dottor, ma ascolti, lì arretta me, non la prenda più. Chi su ha imparato a tutti i cardiologi, a chi lavorava sicuramente a Santo Brito, chi su, alle cliniche universitarie. E la medicina è l'obbligo, me lo ricordo ancora. Mi aveva dato questa medicina perché avevo un attacco cardiaco, lui me l'ha cambiata, me l'ha dato un'altra, mi ha detto questa è più leggera, non le fa nulla, ma questa qua rende potente. Perché praticamente si rallenta il flusso sanguigno e ti rende potente. Figurati un poco, sino Rosanietti, i cardiologi che... E sono andato io, per esempio, ho trovato posto a fare la visita cardiologica, che l'ho fatta da poco, prima di fare la visita diabetologica, perché voleva pure l'oculista e il cardiologo. E quindi sono andato a San Camillo, ma c'era questa dottoressa bravissima. A me me l'hanno dato all'INA, non so manco come funziona l'INA, Chi su di Bigliamozzi, sono andato pure in Chivi, c'è un dottore che guarda, l'ho pigliato e è tirato a balla, a Mozzi non ha pigliato. Ma cosa? Ma lo fumo. Ah, ma io non fumo. Ci ha sgridato perché tu facevi una cosa che non dovevi fare, ecco cosa faccio. Certo non si può permettere di pigliarti a voce, però se lo deve dire tranquillo, però... Ci ha preso la voce perché ci fa male il fumo, se no ho mille volte di mollare la sigaretta. Lo so. Comunque non ha preso la voce quello lì, c'era da prenderlo, cazzo, e tirarlo al muro. Mi la viene in di ragana, mi di bigliarlo, cazzo, e così si trovava con. vabbè, ma non ci riesci proprio a smettere a fare. E con tutti i rompimenti di balle che ho, figurati se riesco a smettere di fumare. Io già ci riesco se ho la testa tranquilla, però. La sigaretta non te li risolve di certi problemi, te li amplifica ma non te li risolve. Ah, quello è poco ma è sicuro, perché cosa ti credi che io non lo so che mi fa male. Già, lo gioco che li usai. Dopo quello che hai avuto, poi tu la sali, ce l'hai scappata per miracolo, cazzo. Infatti. Tu da lì dovevi troncare immediatamente, troncare col fumo, boh, basta, non avevo più vedere, come ho fatto io. Sono andato a pescare un giorno, sono andato, me le compro, me le ho comprate, me ne ho fumato un pezzettino di una, ha giubilato un bacchetto di tutti i fasciati. E dal giorno la mia decisione è stata quella, non sono più tornato indietro. E io avevo smesso, no? Però dopo ho ricominciato, capito là. Lo sbaglio è stato quello. Io ho sofferto la prima settimana, poi mi sono comprato delle caramelle senza zucchero, quando avevo voglia di fumare mi mangiavo una caramella e mi appagava così. Io capisco. Naturalmente quando andavo a pescare, abituato com'ero, lanciavo e andavo nella sacca a cercare le sigarette per accendermelo, però non venire. Quando sei difende i fumi, eh. Allora ho opzionato, mi portavo i cracker. I cracker, quando avevo voglia di fumare, prendevo un cracker e me lo mangiavo. E allora manco qui ce lo ti va arrivare. Infatti. Bisogna cercare di sostituirla con qualche cosa, capito? Di modo che non sia del tutto senza nulla. Con qualche cosa bisogna sostituirla, una caramella o qualche cosa così che ti piace, o ti mangi un gelato, o ti mangi la caramella, qualche cosa la devi prendere, di modo che sostituisci il fumo. E infatti, io avevo smesso di colpo proprio. È così che bisogna fare, perché se tu stai tentennando non ce la fai mai, perché passi da mano al tabacchino, ci entro, non ci entro, ci entro, non ci entro, per la fine di tutti. Invece smetti di colpo e dici basta, non ne voglio più sapere, devo vincere io. E infatti. Non te lo devo dire agli altri di smettere, se no non ve la fai mai, perché non fai quasi come ripicca, non smetti. Devi essere tu a deciderlo, quello è un... Sì, lo so, lo so. Però uno deve essere pur gabisano, deve essere già, non deve avere rotture di balle, non deve essere nervoso, lì da ogni 5 minuti mi vado in cassa, per quello che non sono riuscito mai a smettere. È bella, eccoci. Manco male, se ne è andata dall'amica, cazzo. Gesù Cristo mio. Allora manco una serata tranquilla, basso. Ma poi per finta la televisione chiudata. Almeno quello, ci lascia un po' il relax. Infatti. Allora manco so cucchiaio, tranquillo, va quando vieni. Così mette il brodino di mammo. E chi fa vita un bene, ti metti un gabbaccacco chi c***o. Ma io ti giuro, molte volte non l'ascolto neanche, perché sennò ti sciogli il zaibillo. È fatta così, da non è cattiva, però è il suo modo di essere. Allora saranno i giaramidelli a tutti i giaramidanni, pura amica. Una che abita di fronte abita, non abita in questi vicoli, abita di fronte al vicolo nostro. Io l'avevo vista una volta, adesso non mi ricordo, San Donato, quella zona lì, con una seduta fuori con una donna, l'avevo vista, e ci siamo anche salutati. Praticamente, vabbè, anche loro hanno bisogno di sfogarsi, parlano male dei mariti. Quella è la prima cosa che fanno, si crede che noi non lo sappiamo. Quando si riuniscono che vanno in pizzeria a vedere donne, poi a pezzi si fa. Quello è poco ma sicuro. Adesso c'è Marcolino che sta vedendo sotto i bastini. Marco dirà, io non c'ho di quei problemi. Uno che ha fatto una risattina. Mi è sembrato, quello lo so. Sono qua, ero io. E appagato. Vero Marco, tu ci avevi pensato, io di quei problemi non lancio. Vabbè, però è una cosa, cioè, bisogna pensarci non due, quattro volte prima di portarsi una in casa. Io, cioè, già per esperienze passate, perciò mamma aveva detto, ascolta, i prossimi cosi, i rapporti con qualcuno, te li vivi fuori, non a casa, però a casa non ce le voglio, ho detto tutto. Figurati un po', come? Che abitava a casa tua? Come? Abitava da te a casa tua? No, quello no, ci mancherebbe, no, quello no, però spesso e volentieri veniva a casa, eccetera, soprattutto quando non c'era mamma, no? Perché poi lei quel periodo anche, vabbè, dipende dal periodo, ha insegnato fuori, eccetera, quindi avevo la casa tutta per me. No, stavo dicendo, Natali, magari cosa, ti ha messo una microspia in casa per vedere se parli male di lei quando non c'è, e tu fai lo stesso, le metti una microspia nel colletto della camicia, quello che è, in borsa, a vedere se lei parla male con l'amica di te. Non solo della microspia, anche la telecamera qui c'è, però io già l'ho staccato. Ma intanto cosa fa? Anche se lo sa, già rifatti, tutto rifatti, io qui. Gli mette il curaro, mi rimettere il curaro nel cibo. Meglio lasciare fare, se lo fanno peggio. Io gli ho detto adesso che mi ha rotto ben bene le scatole, ti metto il veleno per i tuffi e ti uccido, l'ha giudizio. E si l'ha creduto davvero. Ma va. Ah no, un attimo ha fatto incazzare giusto, gli ha ammazzato pure il veleno per i tuffi. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando, avanti. Bella chi sei. Ciao Marco, ciao Gianni, ciao Natalino. Tu sei Natalino, a livello di denuncia sei, mi sai, quando devo dirci queste cose. Ciao Giulia. Ciao, ciao Giulia. Natalino, ma non l'ho fatto, è ancora viva. Per maltrattamenti. Ciao Giulio. No, ma qui è superata Natalia, altro per esempio. C'è la ricina. La ricina è una tossina potentissima e non lascia alcuna traccia, capito? Altro che stricchina, curaro, cose per esempio, per tuppi. Quindi che sia bene in salute, mi sanno adesso che l'hai detto radio, se muore in circostanze sospette, concetto, no, cercalo te. Ma io sono antica, il veleno dei tuffi ho detto che li mettevo. Dai, rilancio Giulio e stiamo prendendo così da, per sdrammatizzare un po', se no, se pensiamo ai malighinzi, Giulio qua, dobbiamo solo piangere, riprenditi. Ok. No, ma tu immaginati, se qualcuno un po' linguacciuto lo sentisse, e disgraziatamente dovesse succedere veramente una cosa del genere alla moglie, subito la colpa è sua, è Natalia, è lui che l'ha ammazzata, è lui l'assassino. Allora ha detto che mi registra e che mi fa arrestare, ha detto. E non fa ragione, io avrei preso Mattarello, mi avrei preso con una come una minaccia del genere, ci vuole come minimo Mattarello in mano a tua moglie Natalia. Vedi i complimenti che ci fa dire Bobo. Maradì mi aveva fatto ci fuori dalle grazie di Dio, lo sai che sono cose che possono succedere in famiglia, per cui guai se non succedere anche quelle cose, significherebbe essere proprio passibile al 100%, ovvero già. L'amore non è bello se non è litigarello, ma quando è troppo litigarello da voi è feo, È meglio che ci sia la pace, però naturalmente siccome i modi di pensare sono diversi tante volte e siamo delle discussioni normali, però una volta che si fanno queste discussioni è bello non tenere il muso e andare avanti. Così abbiamo fatto. Ma è così, no? È sempre stato così e sarà sempre così. Del resto non tutte le persone possono avere la stessa idea, lo stesso comportamento, eccetera. È chiaro. Litigarello sì, ma no, guerriero. Natalì, tu sei un guerriero. Sì, ma la di mi ha fatto arrabbiare, vero, mi giù. A te ti faccio furia, vedrai, mi ti metto il mangiare dei tuffi e ti elimino. Ma non è che ti hai messo a voce, no, tipo Paoletto contro di lì. Hai capito, vero tu? Ti registro, gatta, tutto quello che dici, così almeno se io muoio ti arrestano. Così mi aveva detto. Tu ricordati, quando tu dici queste cose, loro quando parlano con le amiche o con parenti stretti, eccetera, glielo riferisco, guarda, mi ha detto così e così. Sicché se mi succede qualcosa sappiate che è stato lui. Così pensano in Natalì. Certo, no. Che infatti bisogna non dire niente, stare tranquilli. Bisogna agire senza parlare, Natalì. No, io capo. Canto G di Ciaramedusi. Giù no, avanti, buonasera. Ciao Gianni, ce la fai io, ciao Giulio, se non so, c'è altro, senta che sono fatto. Che male. Bell'entrato. Senti, non so se hai ascoltato il discorso che stavo facendo natalino. Guarda che oggigiorno o Natale è anche pericoloso, con tutto quello che succede, già lo sai, anche ieri o oggi, se ricordo bene, c'è stato un omicidio, un marito ha ammazzato la moglie. Attenzione Natale, non scantonare troppo, vabbè, tu lo so che stavi scherzando, ma comunque non sono scherzi da tenere in considerazione oggi non Natale. Bisogna andarci piano piano. Vai Tony. Già la vuole bene Natalino, la moglie, dice così. Ma non lo dice così perché la vuole bene, capito? Anche se la vuole amare, ma con di Dio, vero Natalino? Sì, abbiamo fatto prima, avevo fatto una pistolettata, l'abbiamo ammazzata se la vuole amare. E abbiamo fatto prima. Iradì mi aveva fatto arrabbiare e gli ho detto che gli mettevo il veleno dei tuppi per eliminarla. Addirittura. Eppure in cui va. Ciao Tonino. Ciao Marcolino. Ecco senti il veleno per i tuppi. Rasa antica mi. Oh, comunque, se avete notato, le donne stanno rimontando in quanto a, quindi casi di ex ragazzi, mariti. C'era stato quel piccolo accoltellamento con un mezzo coltellino, chissà cos'era, un tagliaunghie a Puro Torres. E mi pare anche Alghero, mi pare un paio di giorni fa, c'è una che ha accoltellato uno, non so se era un ex oppure un'altra persona, non l'ho letto bene. E quella che aveva accoltellato il marito dice che stava tagliando l'anguria. Certo, dice, se mio marito, dice, che colpa ne ho se mio marito mette il collo sull'anguria quando la sto tagliando. Ma mi sono tre coltellate, erano tre fette. Quello ero conosciuto me. Era dove facevi quel servizio tu. Praticamente ha fatto una fetta di anguria anche a te lì. Ah, voi state dicendo quella tempo fa a Sassari, sì, quella con gli occhiali, mi pare mezza bionda sia adesso. Perché libera è lì? Libera? Boh, non so se sia libera, non so se ha trovato qualche altro punto a spilli. Voi avete parlato in tre. Che stai parlando, Marco? Aspetta Giulio, scusa, no, prima ho parlato in tre loro e poi ho parlato con sopra di te, ripeti. Ho detto, stai parlando di quella donna di Canica di un paio di anni fa. Sì, è probabile, no, l'avevo vista tipo foto di Facebook, è una che ha gli occhiali, qualche tatuaggio di troppo che io ricordi, mi pare sia bionda attualmente. Quella gli è scappato il coltello, gli è scappato, la luguria era troppo leve, troppo dura, evidentemente, lei ha fatto forza e gli è volato via il coltello, ha colpito il marito. E come con la battuta che quello stava pulendo l'arma, il cioè stava pulendo l'arma, mi sono partiti 16 colpi, ha beccato la moglie, tutti 16 colpi in testa, capito? Una faccia di Ramivia. Ma se ne sentono tutti santissimi giorni. No, ma la cosa più curiosa è che ci penso sempre, io tutte le volte che sento la notizia del genere, ci penso sempre a tutte le cose che hanno fatto, tutte le manifestazioni proprio in difesa ad esempio delle donne, eccetera, eccetera. Però tutti i giorni se ne sente più di una. È lo stesso discorso anche per le manifestazioni in difesa dei lavoratori che muoiono sul posto di lavoro. È sempre fatto apposta, tutte le volte che c'è qualche manifestazione, così senza pensarci troppo o troppo, l'indomani succede sempre il guaio. Sì, ma queste manifestazioni poi sono fatte per fare cingomma, capito? Per fare così, per fare qualcosa. I lavoratori continuano a morire malamente pure, come quei quattro, mi pare, o quanti erano, poveri cristi, soffocati dal gas in un condotto, un tombino, non mi ricordo cos'era. E così continueranno a ammazzare donne, anche uomini, adesso. Fra un po', è noi chi ci difende, è noi chi ci difende. Nessuno, siamo noi gli assassini che facciamo i femminicidi. Ma anche quelli poveracci che sono scesi dentro la cisterna della fogna, come si marito, tre coltellate, infatti non ci esce, non un po' più coprire l'anguria, ma già per me lo grande. E per più sì. Ma è successo anche qua a me, che sono scesi in una cisterna a pulirla e le esalazioni li hanno uccisi, hai capito? Ma anche me, non solo di la mascherina, avevo la macchina con ossigeno in chivi, per entrare in chivi, se no non si può andare perché le esalazioni ti uccidono. Se ci penso l'ho fatto anche io. Ma questi come mai non hanno pensato al pericolo che poteva esserci? Cioè sono così impreparati da essersi calati? Boh, non lo so, o c'erano particolari esalazioni non previste, tipo monossido di carbonio o altre cose? Oh, sono i gas foniari, sono il gas della fogna. Noi avevamo praticamente il tombino del palazzo di fronte al magazzino. Quando si rompeva, si fermava la pompa sommersa, andava a finire la fogna nel vano del montacarichi. E praticamente dovevi scendere giù, mettergli una pompa sommersa dentro il montacarichi e farlo uscire fuori l'acqua. Prima pulire la pompa esterna e poi fai uscire quella che c'era il montacarichi all'interno del pozzetto. E molte volte dopo che finiva la pompa di aspirare dovevi scendere giù a pulire, perché c'erano tutti i rimasugli della cosa. E molte volte io sono sceso, se ci penso poteva succedere la stessa cosa a me, senza mascherina, con i stivali e con i guanti. Ascolta, ma hanno detto che gas li ha uccisi, l'hanno reso noto? Sì, acido citrico, qualcosa del genere, adesso la parola precisa non me la ricordo, acido citrico, boh, una cosa del genere. Ma non sarà mica acido cianitrico? Pulire una cisterna, l'esalazione della benzina li hanno ammazzati. Ma non è che era acido cianidrico? Non era cisterna, era le fognature. Giulio, cianidrico? No, quello che è successo qua stavo dicendo io. Sono andati a pulire una decina di vera benzina, non ha fatta, e le esalazioni li hanno ammazzati. È successo qua a me. Quelle già, delle fognature è quello che stavano dicendo loro. Quindi erano proprio impreparati questa gente, non te ne accorgi neanche, muri come te un coso. Ivo deve essere sempre dell'azienda la colpa. Io dico che l'operatore dell'azienda è sempre informatissimo a queste cose. Se fa delle cose che non deve essere fatte così, oppure imprudenze assolute, come perché sono imprudenze assolutamente pericolose queste, non capisco per quale motivo l'azienda deve essere sempre punita in questa maniera, denunciata per anni e anni e anni, anche a discapito degli altri operai che lavorano. Avanti. Un attimo, Giulio, hai detto una cosa un po' sbagliata, nel senso, perché deve essere l'azienda penalizzata? Guarda che io, dove lavoravo, ce l'ho fatto il corso, delle cose nocive, che non potevo, dovevo usare la mascherina, adesso c'era anche la multa, capito? Quindi l'azienda è responsabile, dove manda gli operai, è fatto a me, dovrebbe arrestare l'azienda, hai fatto ammazzare 3-4 persone, 4 ci siano, ma stiamo scherzando. Innanzitutto c'è proprio un codice severo su quel ratto lì, deve informare proprio gli operai, se devo scendere di tramposo, che pericolo c'è, non l'hai informati, ok, vado in carina, e l'avevi arrestato, l'ergastolo l'avevi dato. Tra tutti i corsi che io ho fatto anche quelli per infortunio sul lavoro. Beh, lo sai che se tu sali in una scala ti devi assicurare che la scala sia ben messa, perché se cadi la colpa è la tua. E così è l'azienda che deve fare i corsi, per forza è responsabile l'azienda, perché deve fare i corsi, e non erano informati questi qui, deve essere. accendere senza le protezioni dovute. Vuol dire che non erano informati. I corsi di formazione li deve fare l'azienda. E questa impalcatura fatta a dovere, come deve essere, senza le reti di protezione, tutte queste belle cose qua. Oppure il tavolame che ce l'hai sotto i piedi è marcio. E io dico che sono gli operai che devono essere più prudenti e più attenti, perché l'azienda sì, io posso capire, l'azienda non mi fornisce tutto quello che serve per essere protetti e vabbè, e allora hanno ragione. Ma se l'azienda ti fornisce tutto quello che serve e tu imprudentemente non utilizzi, come il caso ad esempio delle maschere anche lì a Porto Verde, come cavolo si chiama, che erano scese dentro come si chiama, che sono molti quelli della Sara, come si chiama quella ditta che era successo un paio di anni fa, sono molti 3 o 4, perché? Per le esalazioni, ma uno che lavora queste cose le sa, perché le fanno allora, perché non si rifiutano se li obbligano a fare queste cose? Io la penso così, Tony. No, l'azienda la tutta è per fare i corsi, poi ci deve essere un responsabile, dove devo andare a fare il tamposo, fai il responsabile, controlla, verifica, qua si può passare, qua si può passare, questa tavola è buona, no, vuole cambiata, se non passa nessuno, questo devo fare. Da lui era così, purtroppo è così, ma infatti a lui infortunio grave non è mai successo, grazie a Dio. Voi? Giusto. Funziona così perché anche noi avevamo il responsabile sia del pronto soccorso che ero io e poi c'era quello per l'antincendio, perché noi facevamo diversi corsi HACCP, antincendio, corsi sugli infortuni sul lavoro, i corsi per come comportarsi col cliente, tutti questi corsi si facevano fuori dall'orario di lavoro, quindi tu invece che entrare per dire alle 5 dovevi entrare alle 3 per fare il corso. Capito? No, noi durante l'ora di lavoro, sì, 1 o 2 ore per fare il corso, ha fatto il corso anche per la scala aerea, ha fatto il corso, ci ho fatto il tiro, ci chiama i 5 anni, per dirti, ci facciamo fare tutti il primo soccorso, già lo sai come è il primo soccorso, quindi cosa devi fare se uno si viene, no? Si riprende, insomma, fatti queste cose qua. Tutti i soccorsi in sicurezza ci vogliono, perché se no c'è la penalizzata l'azienda, ma stiamo scherzando. Purtroppo vuol dire che quell'azienda agli operai, no, per lei cosa ne sanno? Ci sono quelli ignoranti che non lo sanno, se tu non li avvisi giustamente vanno a lavorare, cosa ne sai se le installazioni va delle mani o no? Quindi però si vedono perché abbiamo fatto il corso, ma quelli poveri ci sono molti e poi se lo sapeva, la colpa dell'azienda, punto e basta. Ok, facciamo chiedere adesso questo discorso, avanti Marconi. Noi facevamo il corso e anche l'esame alla fine del corso per darti la testata. Certo, dopo ti vanno l'esame e poi ti danno l'attestato, io ci ho attestato. Avanti Marcolino. Sì, Marcolino non riprende. E anche io quando ho lavorato al comune ci facevano i corsi, il responsabile della sicurezza era un architetto, cazzo. Eppure quando abbiamo fatto il travaglio in via Milano farava l'ingegnere di la sicurezza. Figureggia di un po' carituna di linea. Tu pensa che io quando ho fatto 10 anni prima del santo, addirittura tempo fa, c'era anche l'assistente contrario, veniva a controllare tutto, se il ponteggio l'hai fatto bene o non l'hai fatto bene, per eventuali infortuni, capito? E quando allora un'azienda con le contrapparle queste cose le deve fare, perché sennò se fa mangiarsi di là e furare di là, tanto vale non apri mai quell'azienda, perché è così. Oggi sono le leggi severe e purtroppo è così, la deve seguire. Andrà mai a ammazzare il passo perché uno esce ma andare a travagliare, non torna più mambo, fuori dice ma dove siamo? No? I truppi ne sono morendi, Tonino. Le aziende devono fare per forza questi corsi qua, perché sennò lui, e con tutto che ne sono morendo un bel, fare un bollettino di guerra, gatta, ogni tanto ne morirà qualcuno. Che non rispettano, lo stesso sorvegliante ad esempio, gli operai, anche quello è un dipendente dell'azienda, non è che il principale, il padrone è il miliardario lì davanti agli operai per vedere cosa fanno e cosa non fanno. Prendiamo ad esempio quando l'anno scorso, quando si era rovesciato quel muletto lì all'ecocentro a Sassari, che l'ha schiacciato, che è morto una persona, e cosa volevi? Che ci